Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Patagonia con Laura Pariani. When I walk beside her, I am a better man. When I look to leave her, I always stagger back again. La Patagonia nella mia vita conta molto. Io ci sono stata per la prima volta quando avevo 15 anni, inseguendo un nonno che, come tanti in Italia, se ne erano andati negli anni 20 e non era mai più tornato. E quindi il mio rapporto con la Patagonia è un rapporto estremamente intimo. Erano gli anni 60, 1966. Conosco la Patagonia argentina bene, la Patagonia cilena. In questo momento preferirei parlare della Patagonia cilena perché credo sia la grande sconosciuta, quella che sta fuori dalle rotte del normale turista che compra il pacchetto turistico in Europa. Va al Perito Moreno, ghiacciaio bellissimo, favoloso, forse un po' troppo pieno di gente, e va nella città di Ushuaia, la città più meridionale del mondo, pensando di incontrare grandi emozioni. In effetti ci trova tutti i turisti europei che sono convenuti con la stessa idea, e quindi sente parlare la sua lingua, addirittura i dialetti del suo paese. Ecco, è una strana situazione questa Patagonia turistica. La Patagonia è l'estremità meridionale del continente americano, una regione che divide i suoi oltre 900.000 km quadrati tra due stati, l'Argentina e il Cile. I due paesi si spartiscono anche la Terra del Fuoco, l'arcipelago il cui punto più a sud è Cap Horn, in Cile. Delimitata a ovest e a sud dalle Ande, la Patagonia deve il suo nome ai Patagoni. È così che Magellano aveva chiamato i nativi di questa terra, scambiandoli per giganti. Natura incontaminata, fiordi, ghiacciai e silenzi che tolgono il respiro caratterizzano la Patagonia cilena, che per via del suo clima ruvido accoglie solo il 2% dei cileni. Oggi si va dal Lago d'Orta alla Patagonia con la voce di Laura Pariani, che entra nel mio computer attraverso Skype. La Patagonia che visiteremo però non è quella turistica, come l'ha definita lei, che coincide con quella argentina, ma quella meno conosciuta e per questo più interessante, che è quella cilena, soprattutto per chi ci va per la prima volta come me. La Patagonia cilena è assolutamente non turistica e forse per questo estremamente affascinante, secondo me. Io ci sono stata la prima volta nel 2000. Nella parte cilena, in un viaggio che ho deciso di fare partendo da Santiago de Cile. Io stavo a Santiago per una fiera del libro, quindi a fare delle conferenze, e a questo punto mi sono detta: lo stretto di Magellano, che è una di quelle parole, no, che stanno su libri di storia, su libri di geografia, evocano tante cose, visione di velieri che cercano la rotta tra il Pacifico e l'Atlantico, e ho scoperto che andarci era difficilissimo, nel senso che non esiste una strada che percorra il Cile meridionale. O meglio, negli anni di Pinochet fu fatta una strada, fu iniziata la costruzione di una, la cosiddetta Ruta 7, una carrettera che aveva dei nomi, carrettera longitudinale austral presidente Augusto Pinochet. Questo era il nome totale, che poi la gente lo chiama Camino Austral, iniziato con un dispendio faraonico di spese e poi interrotta perché mancanza di fondi e la difficoltà di costruire una strada in una zona che per gran parte dell'anno è coperta da neve o da ghiacci. Tierra donde yo vivo, somos puro corazón. Arrivare nella parte più sud del mondo attraverso il Cammino Austral, una strada che per la maggior parte dell'anno è coperta da neve e ghiaccio, non è proprio una passeggiata. Meno male che con me c'è Laura, che nella Patagonia cilena ci è arrivata un po' con tutti i mezzi. E quindi ci sono dei pezzettini di questa carrettera, di questo Cammino Austral, ma in effetti è praticamente impossibile il percorso con un'auto o con un autobus. Quindi l'alternativa partendo da Santiago è o di tornare in Argentina e farsi tutta la strada in Argentina e arrivare allo Stretto di Magellano, che è prevalentemente cileno, oppure fare un percorso con la nave, cioè prendere a Puerto Montt, che è il capoluogo, la città più importante di mare nella decima regione. Il Cile ha una strana, ha degli strani nomi per le sue regioni, le indica con dei numeri. E le regioni patagoniche sono la decima, l'undicesima e la dodicesima. E la decima regione, che è quella dei laghi, la Araucania, tanto per dirla un altro nome che evoca le lotte degli araucani contro i conquistadores, da Puerto Montt si può, nella stagione estiva, cioè quindi da Natale fino a marzo, prendere una nave che fa degli scali e si arriva fino allo Stretto di Magellano, quindi Puerto Natales o Punta Arenas. Oppure si prende l'aereo, cioè da Santiago un aereo che va alle isole Falkland e che fa scalo a Puerto Montt, Punta Arenas, e poi arriva appunto alle isole Falkland o Malvinas, come dicono gli argentini. Beh, a ogni mezzo di trasporto fa eco un'emozione. Del resto, quando lo spazio e il tempo impiegato per percorrerlo si dilatano o si stringono intorno all'esperienza del viaggio, la meta diventa solo il pretesto per vivere il tragitto. Sono due cose possibili, cose che danno emozioni estremamente diverse. Ad esempio, facendolo con l'aereo, la cosa bellissima, paesaggio dall'alto, l'aereo sorvola le Ande meridionali e hai una visione, io credo una delle visioni più belle, cioè, che uno può avere dall'aereo, del Pacifico, dei fiordi, questi fiordi color turchese, in cui entrano i ghiacciai. È una cosa veramente meravigliosa. Se ti capita naturalmente una giornata, devi sperare che gli dèi ti concedano la giornata in cui le nuvole si aprono e vedi queste lingue di ghiaccio che entrano nel Pacifico. È veramente bellissimo. Con la nave naturalmente hai la possibilità, è molto lungo il viaggio, perché sto parlando di nave, ma in effetti sono delle piccole navi, hai comunque la possibilità di fermarti in alcuni luoghi. Credo che il luogo più bello dove ci si possa fermare in questo viaggio, che va appunto da Puerto Montt a Puerto Natales, è l'isola di Chiloé. L'isola di Chiloé. Non so perché penso a Darwin. Devo solo avere pazienza e attendere i prossimi racconti di Laura, che sono stati così dettagliati e partecipati fino ad ora. In fondo, chi arriva in un luogo dal nome così familiare come lo Stretto di Magellano non può che sentirsi coinvolto dalla storia e dalla geografia. But they offered just confusion as they bled into his. Dear God, put it to the side. What should happen to a man's assassins? Dear God, it's a suicide. I have never been a man of passion. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Patagonia con Laura Pariani. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Siamo arrivate nel luogo della Patagonia cilena che ha davvero stregato la mia compagna di viaggio, Laura Pariani. Abbiamo preso il cammino Austral per arrivare allo Stretto di Magellano e nel viaggio che da Puerto Montt ci sta portando verso Puerto Natales, ha voluto farmi fare un giro proprio qui, all'isola di Chiloé. Isola di Chiloé. L'isola di Chiloé è la seconda isola per superficie del Cile, superata unicamente dalla Isla Grande della Terra del Fuoco. Si trova nel sud del Cile, fa parte dell'arcipelago di Chiloé ed è la più grande. È lunga 180 km e larga 50. La sua popolazione è di circa 155.000 abitanti. La provincia di Chiloé comprende l'isola omonima e un gruppo di isole secondarie. Le sue due città principali sono Castro, la capitale, e Ancud, vecchia capitale della provincia e sede vescovile. È un'isola a cui avevo molto pensato la prima volta che avevo letto Chatwin negli anni 70, perché lui ha dedicato a quest'isola più di un saggio, forse proprio per l'incanto di quest'isola, ma ancor prima mi aveva scritto Darwin. Darwin ci passò con la sua goletta e rimase completamente affascinato da un'isola che era al di fuori di tutto quello che lui aveva conosciuto. È un'isola che è lunga 180 km ed è praticamente coperta quasi interamente da pascoli verdissimi e foreste. La Baviera. La Baviera però con le ondate del Pacifico, no? Pacifico che arrivano fino alle mucche, questo è più o meno Chiloé. E le foreste sono foreste di sequoie, è una cosa impressionante, quindi verdissima, con l'oceano da una parte nel lato occidentale e sulla costa invece orientale, che si affaccia su uno stretto di mare, e quindi dall'altra parte hai le Ande, con tutti i vulcani, quindi hai il vulcano Sorno, il Chaitén, tutti questi grandi vulcani della parte meridionale delle Ande, ed è uno spettacolo meraviglioso. Ecco perché avevo pensato a Darwin. D'inverno il clima è detestabile e d'estate è appena migliore. Credo vi siano pochi luoghi al mondo nelle zone temperate dove piova tanto come qui. Il vento soffia furiosamente e il cielo è sempre nuvoloso. Avere una settimana di bel tempo è davvero un miracolo. Durante la nostra prima visita, solo una volta il vulcano Osorno spiccò nella sua imponente mole. La descrizione che Laura mi fa della sua esperienza sull'isola di Chiloé fa capire però che rispetto all'epoca in cui c'è stato il naturalista britannico, il clima sia un po' cambiato. Ad esempio, quando sei sulla parte orientale dell'isola ed è il tramonto, in questo cielo rosato tu vedi tutta questa catena di vulcani azzurri bellissimi, innevati, perché la caratteristica delle Ande patagoniche è il fatto che non hanno delle cime altissime come le Ande centrali o settentrionali, le cime sono sui 4.000 metri, ma sono 4.000 metri che partono dal livello del mare ed è una cosa fantastica, insomma. Quindi ecco, c'è questa costa orientale di Chiloé, incredibilmente bella, con questi paesaggi che danno sulla la catena dei vulcani delle Ande patagoniche, e la costa occidentale, quella che col Pacifico che arriva con le ondate è selvaggia, praticabile in pochi punti, però ci sono alcune di queste calette. Io ricordo un grande golfo vicino ad Ancud in cui eravamo completamente soli, sabbia, un golfo pieno di fenicotteri rosa, è una cosa veramente da paradiso quando sei in primavera su quest'isola. L'isola è, come ho detto, verdissima di sequoie, e poi l'altro colore è quella dei siruelitos rossi, sono questi arbusti che fanno dei fiori questo rosso acceso, quindi sono queste macchie rosse in mezzo al verde, oppure questi lupini gialli, si chiamano chochos, anche lì, questa esplosione di colori che è bellissima. E ricordo questa spiaggia in cui eravamo da soli, quindi silenzio, a parte i fenicotteri, e a un certo punto non si capiva, c'era un rumore ritmico, toc toc toc toc, e uno non capiva, dicevo, ma da dove viene questo rumore? Era come una cosa, non riuscivamo a capire l'origine, e poi abbiamo visto che sulla spiaggia dei pescatori avevano ammucchiato avevano fatto dei mucchi di vongole, le grandi vongole del Pacifico, insomma, da noi ci sono le vongoline, e le vongole tutti i frutti di mare sono enormi. Ecco, e c'era questo mucchio di vongole, e le vongole respiravano, erano vive, e quindi battevano ritmicamente queste valve, era una cosa, e c'era questo rumore di nacchere che ci è voluto un po' per noi a renderci conto e a accettare che fossero tutte queste migliaia di vongole vive che battevano il tempo, insomma, in questa spiaggia che era davvero un paradiso. Vongole come nacchere che battono il tempo sulla spiaggia. Come non rimanere affascinati da una natura che coinvolge tutti i sensi? Questi paesini deliziosi con questi nomi strani, cacao, ciacao, questi nomi nao, e con le palafitte, in cui pescatori abitano queste palafitte, e tutto, dalla casa alla chiesa al municipio, tutto è fatto rigorosamente di legno di sequoia, che è la grande risorsa, perché insomma, è il materiale che hanno a disposizione, colorato con dei colori fantasiosi, azzurri, rosa, gialli. È una cosa veramente indimenticabile attraversare l'isola di Chiloé. C'è un'unica strada con piccole deviazioni, La strada è una strada di terra. Quando Darwin ci andò, disse che le strade erano coperte di legno di sequoia, erano pavimentate di legno di sequoia che permetteva alle carrozze di passare, ai cavalli di passare senza affondare nei momenti di pioggia, che naturalmente siamo nel Pacifico, sono anche frequenti. Insomma, è un'isola verdissima anche perché le piogge sono almeno una al giorno, ecco, bisogna metterla nel conto quando si viaggia da queste parti. E a proposito del clima, penso a Chetwin e alla descrizione che fa dell'isola, simile a quella di Darwin, solo con un pizzico di poesia in più. In fondo anche la pioggia da queste parti, come dice la Pariani, va messa in conto. E poi non è l'unica cosa che la rende unica. L'isola di Chiloé è famosa per la nerezza dei suoi temporali e della sua terra, per i fitti cespugli di fucsia e di bambù, le chiese dei gesuiti e le mani d'oro dei suoi scultori di legno. E per l'ospitalità dei suoi abitanti, come prosegue Laura? Dire Chiloé in Cile è come dire da noi cafone, è come dire da noi bifolco. È la persona non istruita, la persona la più semplice, la più povera di spirito. E questa è gente invece stupenda, è gente poverissima che ha fatto da sempre questa vita isolata, ma grandiosamente disponibile nei confronti di chi arriva. Io lo trovo una cosa bellissima. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Patagonia con Laura Pariani. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Siamo sull'isola di Chiloé con i suoi temporali neri come la sua terra, per dirla alla Chetwin. Ma siamo anche in mezzo all'ospitalità della sua gente. Gente povera, semplice e, come racconta Laura Pariani, estremamente disponibile verso il viaggiatore. Come la donna che l'ha trascinata in casa sua per mangiare. Tra l'altro si mangia naturalmente pesce, no? Tutte queste palafitte, una serie di cucine familiari. Comincia già da Puerto Montt l'esperienza di entrare nelle cucine della gente. Io ricordo che quando siamo arrivati a Puerto Montt e dovevamo partire poi per Punta Arenas il giorno dopo, la prima cosa che ci dicono è una domenica mezzogiorno, dove si va a mangiare? Andate al porto. Arriviamo al porto e c'è una serie di palafitte lì, ovunque le case nella regione stanno sull'acqua. Pioveva. Ci ripariamo sotto il tetto, la gronda di una palafitta, si apre una porta, esce una donnona con stivaloni di gomma, un grande grembiule, e ci dice: avete fame? Noi ci guardiamo, sì. Volete mangiare? Certo. E lei praticamente ci butta dentro in una cucina dove ci sono dei tavoli. E la cosa funziona così: in questi tavoli chiunque entra può mangiare, in cucina sta la figlia della donnona, la donnona sta fuori, ogni tanto apre la porta e sbatte dentro qualcuno. E lì credo abbiamo mangiato il salmone più grandioso più buono mai assaggiato, insomma, quasi vivo, del salmone fritto, perché lì fanno tutto fritto alla griglia e quindi, tanto per variare, mangiamo questo salmone fritto, che sono queste bisteccone di salmone incredibili. Questa sì che è una strategia di marketing adatta al luogo per attirare i clienti. E se il salmone è stata un'esperienza indimenticabile, adesso veniamo al piatto tipico dell'isola. Un'altra cosa che si mangia, questo è proprio tipico dell'isola di Chiloé, è un piatto che credo sia un piatto magico, che si chiama curanto. Ci vuole un buono stomaco, nel senso che perlomeno mi sembra fatto per più di una persona, però te lo portano, quando chiedi un curanto ti portano una cosa incredibile, un grande piattone che è fatto, allora la base è tutto vongole e cozze, poi sopra, visto che è un piatto magico e mescola cose di tanti ambienti, sopra ci sono dei pezzi di congrio, che è una specie di anguillona del Pacifico, poi ci sono dei pezzi di pollo, gli uccelli, il cielo, poi ci sono, c'è una salsiccia di maiale a mo' di arcobaleno che viene messo sopra il tutto, e il tutto è contornato dalle patate patagoniche, quelle viola, che sono buonissime, molto dolci, e viene servito con due tipi di pane, il milcao e il ciapalele, che sono tutti pani comunque a base di farina di patate oppure con le patate grattugiate, e il tutto è accompagnato da un boccale, tipo quelli della birra, di brodo di pesce, per mandare giù questo po' di roba. Questa è l'esperienza del curanto, sì, è quasi mistica. Io nero, tu tempo se fue, Ma passiamo al legame familiare che Laura ha con questa terra e che gliela fa amare così tanto. E devo dire anche che tutta questa zona, la parte di questa decima regione, che è la prima delle tre regioni della Patagonia cilena, questa regione è abitata da Mapuches. Allora, io sono particolarmente legata a questa etnia, perché la donna di mio nonno era Mapuche, e gli Mapuche stanno in un'unica zona, che è a questa latitudine. Dalla parte argentina è la zona della Patagonia argentina, che si chiama Neuquén, e dalla parte cilena è la zona della Patagonia cilena, che si chiama decima regione. E i Mapuches hanno una concezione magica del mondo che è straordinaria e di cui tutta la cultura di Chiloé è impregnata. La mitologia dei Mapuches di Chiloé è fantastica, è piena di sirene a cui quando viene la primavera si va a dedicare sulle spiagge un pranzo, e si porta da seminare la spiaggia perché le sirene diano le cozze, le vongole, le ostriche, tutti i frutti di mare. A queste latitudini, dove tutto è estremo, dove i confini non sono con altre terre, ma sono con la terra vera e propria in un certo senso, anche le leggende ovviamente prolificano. Oppure non so, c'è la grande leggenda di, siccome c'è sempre questa pioggia, questa nebbiolina che circonda, che passa, che entra nei fiordi durante soprattutto le ore serali, che arriva a questi prati che sono anche spiagge, no? Queste foreste di sequoie. Allora c'è la leggenda di questa nave che passa nella nebbia, la nave dei morti, che gira intorno all'isola di Chiloé, che passa attraverso questi canali. Oppure le leggende silvestri, quelle del bosco di sequoie, dove vivono questi strani esseri che assomigliano ai nanetti, che si chiamano Traucos, e che sono estremamente dotati da un punto di vista sessuale e che cercano, che inseguono tutte le belle ragazze che passano. Ecco, no, vabbè, si potrebbe parlare per ancora tantissimo, ecco. Ma comunque questa è la prima tappa per arrivare allo Stretto di Magellano. Poi la nave fa un paio di soste in fiordi che sono bellissimi, comunque sono paesini piccolissimi in cui non c'è nulla. Io credo che in tutta questa zona della Patagonia, dire 80.000 abitanti è tantissimo. E poi si arriva finalmente allo Stretto di Magellano. Basta pensare a come ha parlato Bruce Chatwin dello Stretto di Magellano, lui che capitò in Patagonia per caso, anzi meglio per destino, dopo aver visto una mappa di questa terra nello studio di Parigi dell'architetto 93enne Eileen Gray. Lo Stretto di Magellano è uno dei tanti esempi di come la natura imiti l'arte. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Patagonia con Laura Pariani. When I walk beside her, I am a better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Ormai sono arrivata con Laura Pariani ai confini della Terra, dove si sono spinti nella storia naviganti coraggiosi o incoscienti, convinti di passare di qui senza incontrare il loro destino. E dopo aver vissuto l'isola di Chiloé tra il calore dei suoi abitanti, la magia delle sue leggende e la poesia dei suoi piatti, è il momento di fermarci sullo Stretto di Magellano. Stretto di Magellano. Ferdinando Magellano fu il primo europeo a navigare lo stretto nel 1520, durante il suo viaggio di circumnavigazione del globo. Vi entrò il 1 novembre. Allora chiamato Stretto di Ogni Santi, venne in seguito rinominato col suo nome. È lo stretto che separa l'estremità meridionale dell'America Latina dalla Terra del Fuoco e dalle isole Dawson, Clarence, Santa Ines e Desolación. Lungo circa 600 km e molto tortuoso. L'entrata, tra il Capo Dungeness e la Punta Catalina, è larga circa 30 km. A Capo Froward comincia la seconda sezione, angusta, con coste ripide, incisa da fiordi. L'uscita principale sul Pacifico è a nord dell'isola Desolación. Fino al completamento del Canale di Panama, nel 1914, lo Stretto di Magellano era spesso l'unico modo sicuro di spostarsi tra l'Atlantico e il Pacifico. Lo Stretto di Magellano, credo che la città più interessante, il posto più interessante a vedere è Punta Arenas, che un tempo era una città importantissima, ricchissima, perché da lì, fino a quando non è stato aperto il canale di Panama, passavano tutte le navi. Quindi la città più ricca dell'emisfero, un porto grandioso, c'è questa piazza di Punta Arenas dove ci sono i resti di questi palazzi della Belle Époque, un palazzo dove è stato piantato una serra, sotto cui c'è una vigna. Ma per il resto adesso uno va al porto, ci sono piccole navi, sono soltanto cormorani che riempiono di guano i moli. Punta Arenas è comunque una base se si vuole sorvolare ad esempio le isole della regione della Tierra del Fuego. Noi siamo stati all'isola Dawson, isola Dawson che sta di fronte a Punta Arenas, separata dal canale di Magellano. Io ci andavo per cercare delle tracce per una storia, una storia che si intitola Il colore del silenzio, che è il colore bianco, insomma, per dirla con Melville, ed è una storia che ho messo in un libro che si intitola L'uovo di Gertrudina, ed è un romanzo breve che inizia il libro. Questa isola Dawson è stata utilizzata dai salesiani all'inizio del Novecento per deportarci tutti gli indios della zona, gli indigeni che venivano uccisi dagli estancieros, davano fastidio, rovinavano i greggi, e quindi ci fu lo sterminio degli indios della Patagonia, di questa zona della Patagonia, e per salvarli i salesiani li portarono su quest'isola, li raccolsero, a volte li comprarono perché venivano messi, quelli che non venivano ammazzati venivano messi all'asta, e li comprarono e li portarono su quest'isola dove comunque si estinsero, forse anche di tristezza, perché per un popolo che è nato libero il fatto di essere chiuso in un territorio limitato fa sì che non possa accettare questo tipo di regole. Una triste storia riguarda l'isola anche ai tempi di Pinochet, prosegue Laura, perché tutti i ministri di Unidad Popular venivano confinati qui. Vivere una terra difficile dove tutto va conquistato pezzo per pezzo crea un legame fatale con l'uomo. Ma anche questo qui fa parte della corrente delle cose. E tutte queste zone che stanno lungo lo stretto di Magellano sono difficilmente percorribili con un'auto. Le strade sono gettate di cemento perché l'asfalto non resiste alle temperature invernali. Però ci sono dei posti a Punta Arenas da cui si può andare, ad esempio le Pinguineras del Seno Otaway, oppure il posto più meridionale dello stretto Magellano, che è Fuerte Bulnes. È un fortino costruito dai cileni alla metà del 1800, e lì c'è il fortino di legno con la prigione di legno, la chiesa di legno, tutto rigorosamente di legno. Ci abitano un uomo e quando noi ci andammo c'era un ragazzino di 14 anni che era suo figlio, non c'era nessuno, c'è una vista incantevole su tutto lo stretto di Magellano, lo puoi vedere sia a ovest che a est perché è proprio la punta meridionale dell'America. Il vento, vero compagno di viaggio per chi si è avventurato con le navi da queste parti molti anni fa. Vento che dava movimento, ma che riusciva anche a rendere questo posto inaccessibile, come per quei poveretti che furono lasciati a morire di fame. Sotto Fuerte Bulnes, scendendo con un piccolo sentiero in mezzo a queste stentatissime araucarie che quasi strisciano per terra, non riescono a crescere perché il vento è fortissimo e quindi il vento le piega a ridosso al terreno. Ecco, sotto c'è Puerto Hambre, che vuol dire porto della fame, e lì fu la prima comunità dello stretto di Magellano, perché quando ci arrivò Gamboa, che fu il primo che arrivò da queste parti, lasciò delle persone, dei coloni, dicendo tornerò a riprendervi, non tornò più. e quei poveretti, una trentina di persone, ci morirono tutti. Eppure, al di là delle difficoltà di antichi viaggiatori, la Patagonia è uno di quei luoghi dove tornare è quasi d'obbligo. È lo spirito del mondo che lo reclama, una volta che si è nutrito dello sguardo di nuovi visitatori. Come urlerà a Chetwin, un poeta incontrato sul posto. La Patagonia è un amante difficile. Lancia il suo incantesimo. Una ammaliatrice. Ti stringe nelle sue braccia e non ti lascia più. E per salutare questa terra dove è il mare il vero approdo, mi affido alle parole di Francisco Coloane, uno scrittore dell'isola di Chiloé, figlio di marinai, che ha scelto come destino di raccontare le storie respirate nel vento australe che forgia i fiordi e il carattere, con la speranza che questo viaggio possa spronare in tutti noi, una volta di più, il coraggio dell'esplorazione, non solo geografica. Ignoto è per me una parola magica, perché ogni volta che ripenso alla mia vita, è stata spesso questa parola a spingermi e a sciogliere gli ormeggi. Ora Laura Pariani è in libreria con La Valle delle Donne Lupo, edito da Einaudi. Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufrido, ayer te hirieron las balas. Hoy te hieren los olvidos, Patagonia.